Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Da quello che vedo, le strade funzionano e i mezzi di soccorso fanno quello che possono. Se solo gli italiani imparassero a capire cosa vuol dire pericolo neve e imparassero ad organizzarsi prima, invece di imprecare perché qualcuno non pulisce tutto e subito. Andrea. Da noi in Trentino nevica spesso. I comuni sono pertanto bene organizzati e riusciamo quindi ad affrontare le nevicate con disagi accettabili. Tutti gli automobilisti sono bene attrezzati con gomme invernali da neve, catene, eccetera. Nei paesi di montagna molti automobilisti hanno vetture 4x4. Ho però dei dubbi che gli automobilisti della pianura abbiano le gomme da neve. Flavio. Chissà se tutti questi che si lamentano hanno montato le gomme da neve. Credo di no. Sempre a lamentarsi di tutto. Strano che nessuno abbia detto che la neve è colpa di Berlusconi. Fabio. L'altra sera ascoltavo le lamentele di un automobilista che si recava a Bergamo e che era imbufalito perché non vedeva mezzi che pulissero la strada. Tutto vero. Però l'autostrada alle 13 era già intasata in quanto le auto viaggiavano a passo d'uomo, senza catene e senza gomme da neve. Le code di auto avevano già formato un muro impenetrabile. In questo contesto gli spazzaneve come possono avanzare? Le code di auto su rampe e uscite non erano rispettate, ma erano già un groviglio. E questo è comprensibile, perché tutti volevano uscire e arrivare a casa, ma la cosa non faceva che aggiungere caos al caos. Stesso discorso per i semafori. Tutti vogliono andare a casa, però al semaforo, se uno passa con il verde ma rimane intrappolato nel mezzo dell'incrocio, di fatto blocca la circolazione all'altro senso di marcia. In meno di 5 minuti si formano a ogni semaforo, ad ogni incrocio, ingorghi colossali. Ma non si era detto di non usare l'auto? I tram che non avanzano, o meglio avanzano ma restano in coda intrappolati a loro volta negli ingorghi. Per molti le amministrazioni dovrebbero provvedere a tutto. In compenso, i cittadini non capiscono che gestire un'emergenza implica qualche rinuncia nella mobilità e sacrifici nel comfort. Tutto qui. La famosa nevicata del 1985 era il triplo di questa, ma Milano andò in tilt al secondo giorno, quando la neve raggiunse i 60 centimetri e non con i 5 centimetri di neve di questi giorni. In quell'occasione tutti usammo i mezzi e le metropolitane e ricordo che i giornali elogiarono il fatto che i milanesi fossero fieri della loro metropolitana. Ma quest'anno, che piagnume. Piero, Milano. Nella trasmissione dell'altra sera avete continuato a ripetere che in una situazione in cui si prevedono nevicate bisogna usare i mezzi pubblici per non rimanere imbottigliati nel traffico. In questo modo però si dà la falsa idea di una facile soluzione al problema ingorghi. Quanto ai mezzi pubblici, vi voglio dare una breve informativa. Da Milano a Cernusco, per un viaggio di 30 chilometri, ho passato più di 3 ore in un treno stipato all'inverosimile. Alla faccia dell'appello «usate i mezzi pubblici». Allora, se proprio dobbiamo fare appelli, diciamo chiaramente che con 30 centimetri di neve è meglio restare a letto, come si faceva 100 anni fa. Franco. Quando vi sono temporali eccezionali, il sistema fognario va in crisi e non raccoglie l'eccesso di acqua piovana. E si grida subito all'inefficienza, non sapendo forse che il sistema fognario è calcolato sulla piovosità media e non sull'evento eccezionale, pena un proporzionamento fuori misura e costosissimo. Il maltempo che ha colpito la penisola rientra in un evento eccezionale, dal quale il nostro paese sembra uscire meglio di altri. Tuttavia molti hanno subito recriminato, come le varie associazioni dei consumatori, ritenendo che in questa, come in altre situazioni, tutto fosse facilmente risolvibile, come se ci si fosse trovati in casi di normalità. Mi fanno venire in mente i pesci rossi nella vaschetta dell'acqua che aspettano a bocca aperta il mangime. Pertanto non ho condiviso il rimprovero del ministro ai vertici delle ferrovie, primo perché in tali circostanze l'operato di tutto il personale va difeso, a meno di accertate responsabilità. Secondo, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Specifico che non sono un ferroviere. Paolo. Lunedì, come faccio spesso, ho preso il treno per recarmi a Milano. Al mattino tutto bene. Alla sera un caos tragico. Treni pendolari soppressi o in ritardo di 40-50 minuti e pieni fino all'inverosimile. La Lombardia, specialmente quella che gravita intorno a Milano, ha un sistema di trasporti labile. Basta una piccola perturbazione e il traffico va in tilt. Basta un tamponamento su certe tangenziali e dopo pochi minuti tutto intorno è caos. La neve, come quella che sta cadendo in queste ore, equivale a 1000 tamponamenti, per cui il sistema salta. Eppure le ferrovie vanno in tilt. L'unica soluzione è stare a casa. Non c'è altra soluzione. Sono 50 anni da quando l'auto è diventata una costante irrinunciabile della vita moderna, che a ogni nevicata il sistema dei trasporti va in blocco. Il motivo è semplice. Troppe persone che vogliono muoversi in condizioni critiche. Le infrastrutture che abbiamo in Lombardia non ce la fanno. Occorre solo prenderne atto. Andrea. Caro direttore, le invio un modesto commento circa le trasmissioni dedicate alla nevicata, ampiamente annunciata e affatto eccezionale. D'inverno ha sempre nevicato e da sempre i fenomeni naturali impongono alcuni disagi e limitazioni alle attività umane. Dal tono dei vostri giornalisti, ma soprattutto degli ascoltatori intervenuti telefonicamente in merito ai disagi sulle strade, mi sembrava si stesse commentando la ritirata di Russia. Scarpe rotte eppur mi tocca andar. Alcuni intervenuti protestavano per non aver visto mezzi spazzaneve sull'autostrada, con tutte le corsie intasate. Ma come ci arrivavano? Volando? Io ero uno dei tanti automobilisti per strada, consapevole fin da quando sono uscito che avrei incontrato code e imbottigliamenti. Ma ho liberamente scelto il mezzo privato e non mi sento un criminale, tutt'al più uno sprecone. Ho egoisticamente preferito l'ambiente privato e confortevole della mia auto, caldo e con musica, notiziari e telefono, alla confusione e all'affollamento dei mezzi pubblici. Mi sono detto, meglio impiegare qualche mezz'ora in più di viaggio, operando senza fatica di tanto in tanto sui pedali e su una leva, piuttosto di infradiciarmi alle fermate del tram per viaggiare poi stipati come sardine. Non le pare che ci siamo abituati troppo bene e pretendiamo di poter sempre e comunque svolgere tutte le nostre attività e i nostri svaghi, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, nonché di sentirci in diritto di protestare, ma contro chi poi, se il mondo circostante non si scosta per farci passare? Buon Natale, Michele. Ma come si fa a difendere Trenitalia? Lo sfascio di questi giorni di alta velocità, con ritardi accompagnati da aumenti di tariffe, lo vedrebbe anche un cieco. Per non parlare del massacro che, per avvantaggiare poche tratte, è stato fatto a danno di tutto il resto della rete, già di per sé scarsa. Sono allibito. Giorgio. Ho sentito che l'amministratore delegato di Trenitalia ha suggerito ai passeggeri di portarsi acqua, panini e coperte. Vi prego, fatemi sapere quanto prende di stipendio un burocrate del genere, perché per molto, molto meno, sono disposto a fare gli stessi disastri che combina lui. Massimo. In una vostra trasmissione avete irriso un ascoltatore che paragonava l'attentato al cavaliere Berlusconi a quello di un incidente automobilistico. Credetemi, se non si è provato è difficile comparare le due cose. Un camionista stanco per il lavoro o ubriaco, il giudice, i carabinieri e il mio avvocato non hanno ritenuto doveroso indagare, ha ammazzato mia figlia di anni 22 in un incidente dove la dinamica era chiarissima. Non è stato messo in carcere nemmeno un'ora. C'è voluto un percorso giudiziario di 7 anni per definire che aveva completamente torto. Il camionista ha continuato a fare il suo lavoro e non si è nemmeno scusato. Il corpo di mia figlia è stato valutato 85.000 euro, pagati dall'assicurazione. Compenso dell'avvocato 40.000. Credete ancora che le due pazzie non siano comparabili? Giorgio. Siamo due ex studenti dell'Università Statale di Milano. Oggi abbiamo cancellato il graffito anti-Berlusconi in via Bergamini. Certo, la mafia comunista, cioè i fascisti rossi, non tarderanno a rifare qualche altra porcheria. Tanto loro li conosciamo benissimo. Si ritengono i padroni della città e autorizzati a fare quello che vogliono. E non smetteranno le loro azioni di illegalità, intimidazione, soppressione della libertà altrui, nella nostra città e altrove. Perché il totalitarismo, i gulag e gli stermini sono nel loro DNA, dai tempi di Stalin in poi. Non siamo ignoranti o bigotti, e non siamo neanche scemi. Siamo laureati in filosofia in un'università molto laica e abbiamo vissuto il 68 quando c'erano capanna, lotta continua e avanguardia operaia. Proprio per questo non sopportiamo più i cattivi maestri e sappiamo quindi capire chi sono i tiranni. Sappiamo che chi minaccia la libertà e il pluralismo in Italia non è il cavaliere di Arcore, ma oggi, come negli anni 70, sono i delinquenti rossi, che oggi godono di troppa immunità, a Milano come altrove. Perché le loro scritte e manifesti abusivi sui muri vengono tollerate per mesi? Perché non vengono scacciati dagli edifici che occupano illegalmente da anni? Perché possono occupare le scuole e farci i cavoli propri, le chiamano autogestioni, per settimane, invitandoci i soliti Dario Fo e Franca Rame? Perché possono fare manifestazioni e soprattutto contro manifestazioni violente e provocatorie? Perché possono tirare petardi o picchiare quelli che non la pensano come loro? Dicono di lottare contro il fascismo. Ma quale fascismo? Visto che i veri fascisti sono loro. Clemente e Davide. In queste settimane stiamo assistendo alla caccia degli untori di odio. In tutte le sedi la caccia è aperta e tutti si esercitano al tiro al piccione. Io, che ho poche certezze e molti dubbi, vorrei chiedere: la polarizzazione della vita civile, dell'informazione, degli spazi di opinione, può generare violenza? La mia domanda nasce dall'osservazione che ormai non si può più dire che Napoli sia pulita senza essere di destra, come non si può dire che all'Aquila ci sia qualcuno che vive nei container senza essere di sinistra. Questa polarizzazione è presente in ogni argomento della vita civile e così ci troviamo a non parlare dei pendolari imbufaliti, altrimenti si danneggia l'immagine dell'alta velocità. Io sono sempre stato convinto che sarebbe meglio spolarizzare gli argomenti e parlare dei fatti, dividendoli dai partiti che, non avendo le colpe di tutto, non ne hanno neanche i meriti. Perché non dire che il terremoto è stato gestito molto bene, anche se è normale che una macchina tanto imponente porti qualche disguido? E perché non dire che i rifiuti a Napoli sono stati gestiti ottimamente, anche se qualche zona rimarrà sporca? Perché non dire che le ferrovie hanno fatto un grande sforzo per l'alta velocità, ma hanno gestito male l'emergenza? Luigi. In merito al vostro sondaggio relativo al finanziamento pubblico dei partiti, vorrei che ne parlaste in maniera più approfondita, perché gli enormi privilegi riservati ai nostri rappresentanti politici sono uno dei motivi di base che creano sempre più distacco tra il mondo politico e la società vera, contribuendo anche a fenomeni di violenza sempre più pericolosi. Non credo però si possa fare un paragone con quanto accaduto negli anni 60-70, perché oggi non esiste più, a livello generale, una vera fede politica. Si persegue soltanto un interesse personale, senza alcuna etica o ideale. Non c'è quasi più alcuna differenza in effetti tra destra e sinistra, con una grande tutela bipartisan o tripartisan delle categorie protette, politici, avvocati, notai, supermanager, banchieri, eccetera, che si accoltellano ogni giorno, ma che sono tutti uniti se avviene un attacco alla categoria. Capisco che questi discorsi di sfiducia sono deleteri, ma purtroppo quanto ci viene proposto dalla cronaca è davvero avvilente, per non usare altri termini. Non è comunque qualunquismo il mio, perché cerco sempre di guardare avanti e di reagire lavorando e impegnandomi, discutendo anche con chi una volta non la pensava come me. Vorrei ora porgervi solo questi piccoli quesiti. Ma non avevamo votato alcuni anni fa contro il finanziamento dei partiti? Chi stabilisce quali sono e da cosa sono determinati i costi della politica? Chi stabilisce i costi e gli emolumenti dei nostri rappresentanti politici? Perché l'Italia, che a livello di stipendi è tra i paesi con le cifre più basse d'Europa, ha la classe politica tra le più pagate, se non la più pagata? È vero che c'è appena stato un aumento di stipendio dei nostri politici, passato sotto silenzio? Edoardo, provincia di Bergamo. Gentile direttore, premetto che sono abbastanza nauseato dalla politica attuale e da tutto quello che ci gira attorno. E per me, che da giovane l'attività politica l'ho fatta davvero, è una vera grande delusione. Non riesco nemmeno più a raccapezzarmi tra le incredibili sciocchezze che si sentono in giro e che i media, purtroppo anche loro, molto diversi da quelli di quando ero giovane io, non esitano ad amplificare senza un minimo di critica o di riflessione. Non mi fraintenda, non sono uno di quelli del «si stava meglio quando si stava peggio». Adesso si sta infinitamente meglio di 30 anni fa. Internet è una conquista che ha realmente cambiato il mondo, assieme a tante altre cose che ci fanno stare meglio e vivere più a lungo. Ma è incredibile come questo paese senta una voglia irrefrenabile di gettare tutto al vento. E onestamente non riesco nemmeno a capirne il perché. Leggo che Schifani vorrebbe regolamentare Internet e credo di aver capito che vorrebbe solo che si evitassero messaggi deliranti o gruppi incitanti alla violenza, e subito Di Pietro lo addita come dittatore o presunto tale. Ma Di Pietro non è quello delle manette facili, del rispetto estremo della legalità anche a scapito della libertà personale e dei valori? E quindi non dovrebbe dire «Ok, il problema esiste, parliamone e vediamo di mettere dei paletti pur garantendo la libertà del mezzo?» Come lo chiama lei il reato di istigazione alla delinquenza o alla violenza? Reato o libertà di dire e fare quello che si vuole, naturalmente in modo rigorosamente anonimo? Perché, secondo lei, si è persa del tutto la cosiddetta ragionevolezza? Perché, quando si amministra un comune o una regione, si pensa alle case, alle scuole, alle strade, ai ponti, agli ospedali? E quando si amministra la cosa pubblica, si pensa alle scemenze e a negare tutto, anche l'evidenza? Sono stato un pioniere di Internet e credo che ormai sia un elemento indispensabile alla realtà quotidiana. Ma una piccola serie di regole dovrebbero essere scritte. Perché chi imbratta i muri deve essere punito e chi imbratta un sito no? Mario, provincia di Vicenza. Caro Mario, il problema delle regole, anche per quanto riguarda Internet, è molto importante, ma anche estremamente delicato. Internet, così come il telefono, la radio, la televisione, è solo uno strumento, il cui utilizzo dovrebbe essere il più libero e aperto a tutti. Il problema sorge quando questi strumenti vengono utilizzati per offendere, per diffamare, per istigare all'illegalità. E i problemi si aggravano, perché su Internet è estremamente difficile individuare e punire i colpevoli degli eventuali abusi. È tuttavia necessario evitare in tutti i modi che per colpa di qualcuno si limitino le giuste libertà di tutti. Ma insieme alle regole, che devono mirare soprattutto a far sì che non ci si possa trincerare dietro all'anonimato, ci vuole anche una cultura del dialogo e della tolleranza. Una cultura che l'attuale modello politico sembra per ora contraddire. Ma vale la pena continuare a insistere. Ma ognuno mettendoci la propria faccia, la propria firma, il proprio volto. Per ogni attività importante serve una specifica laurea. E anche per le attività artigianali servono i requisiti che dimostrino la capacità a svolgere una determinata attività. Per la politica non è necessario nulla di tutto ciò. Sarebbe bello se anche per i politici ci fosse un indirizzo universitario specifico che insegnasse il rispetto per gli altri e un minimo di educazione. Inoltre, come avviene per i medici, ci vorrebbe un giuramento che li obbligasse al rispetto degli impegni presi con i cittadini. Sentendo parlare alcuni deputati o senatori, ci si vergogna di essere rappresentati da loro. E se da entrambi gli schieramenti si dicono spropositi e cattiverie, che comunque non hanno nessuna pretesa di raggiungere un risultato utile, come si può avviare un dialogo costruttivo? Mariano, Ascoli. Il cervello più fino del centro-sinistra, D'Alema, non è tanto un picchiatore quanto un politico nato e non può fare a meno del contatto col nemico, che solo in questo furbo gioco di dialoghi va battuto. E infatti, da sempre, il nostro ha perseguito la sua strada, ricordo la bicamerale. Ora propone astutamente il salvataggio di Berlusconi che dovrebbe rivelarsi, secondo lui, più utile al centro-sinistra che allo stesso Berlusconi. Purtroppo però bisogna riconoscere che non gliene è mai andata bene una. In 30 anni di attività politica non ha ottenuto storici risultati, non ha esaltato le sorti del paese. Non è stato il grande demiurgo della politica italiana, una sorta di novello Cavour o Crispi o De Pretis, niente. Eppure siamo tutti d'accordo che è il cervello più fino del centro-sinistra. Oppure no? Giuseppe. Perché mai il governo Berlusconi dovrebbe trovare l'intesa col centro-sinistra per le riforme? Non vi sembra che sia sufficiente la maggioranza che ha? Per riformare la giustizia, gli ordini professionali, la legge sul lavoro, la sanità, l'università, eccetera, è proprio indispensabile l'accordo col centro-sinistra? A me non sembra. Anzi, mi sembra che il mancato accordo sia ormai un ottimo alibi. Marco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.